grazie al dottor Capraro, anche perché è lui l'animatore, il lavoratore reale, animatore di tutta questa iniziativa che, come ha detto Roger, è un'iniziativa che nasce esplicitamente come preparazione del convegno di cui avete, c'è allegato alla cartella una traccia. Devo dire che il tema che ci riguarda e che dovremo affrontare da qui, che, da ora, che sono le 11:10 all'una, è un tema molto vasto. Vi ricordo che i due interrogativi di stamattina sono: quale futurologia è possibile nella società postmoderna, e il secondo interrogativo, connesso ovviamente al primo e non da trattare in termini separati, secondo me, comunque insomma, che si può trattare nei vostri interventi sicuramente in termini collegati, il futuro della religione. Questo tema che dobbiamo affrontare in questo spazio di tempo, per la verità, nel convegno non appare esplicitato come tale, se non in termini che definirei sufficientemente marginali, perché il convegno in quanto tale mi sembra più orientato su altri aspetti che sono sicuramente cruciali, e che sono quello del rapporto tra sociologia e teologia, e quindi quello epistemologico, la riflessione epistemologico-teorica del nesso tra sociologia e teologia, quale rapporto tra scienze sociali e filosofia, e comunque questo ambito di riflessione rispetto al problema che le congiunge, che è quello comunque della religione, sia nella sua accezione più astratta, sia nella sua accezione più empirica. E quindi la riflessione sul futuro è anche una riflessione sul futuro di questo rapporto e sul problema che in qualche modo riguarda la persistenza, la scomparsa, il ritorno, la genesi, il mutamento, su questo dirò qualcosa dopo, della religione nelle nostre società. Io non voglio portare via tempo, mi limito a dire, a fare una considerazione preliminare, epistemologica, che dobbiamo partire però dal presupposto che il presente di fatto non esiste, è solo un luogo di intersezione tra passato e futuro. E quindi in qualche modo la sociologia è condannata ad essere una sociologia che si proietta in avanti e quindi è in qualche modo futurologia, se vogliamo così dire. Il vero problema quindi è quello del rapporto sempre ricorrente tra conoscenza e spendibilità del conoscere, secondo modelli e paradigmi che nella storia del pensiero sociologico sono stati molto diversi, sono tuttora molto diversi. Nel dossier che ci è stato dato c'è una serie di riflessioni su modi diversi di affrontare questo problema, perché se noi ritorniamo al puro aspetto della previsione, della progettazione, quello è un aspetto unilaterale che non può secondo me essere scisso dal problema più generale che è il modo di conoscere spendibilità, e quindi dentro questo paradigma più generale si avvia e dovrebbe andare, come sarà inevitabile, la discussione. Discussione che quindi sulla base di questi due quesiti che ci sono posti, io non chiuderei ad altri eventuali contributi di riflessione, anche perché credo che lo scopo sia poi quello di tirare un po' di fila anche per fare eventualmente qualche correzione in vista del convegno, utilizzando le riflessioni e i contributi che verranno nell'ambito di questa giornata, anche se ovviamente il convegno ha una sua struttura, ma potrà ovviamente tener conto, gli organizzatori del convegno, tener conto di questo nostro lavoro. Allora, dicevo, il primo interrogativo: quale futurologia è possibile nella società postmoderna, con tre punti: il sogno di Prometeo prevedere il futuro, la fine della modernità e la caduta del mito del progresso, l'uscita dalla postmodernità e il nuovo umanesimo. Secondo interrogativo: il futuro della religione, la religiosità personale e la centralità della relazione con il trascendente, l'ateismo dissolutorio e l'irrilevanza della relazione con il trascendente, magia, nuove religioni, chiese storiche, tra declino e innovazione. Questo è grosso modo, dico grosso modo, l'ambito all'interno del quale si dovrebbe muovere la discussione di questa mattina. Io però non escluderei altri ambiti più generali, perché credo che sarà inevitabile. Direi diamoci 10 minuti, un quarto d'ora, vediamo come va la discussione, e cederei senz'altro la parola al primo che gentilmente vuole intervenire, nel senso che siamo tutti, quasi tutti, almeno i presenti, so che sono molto abituati a parlare, ma il problema quindi non è tanto il parlare, è cominciare a parlare. E quindi il primo che si scrive sul tema per agitare un po' le acque, credo che, come dire, prego. Ho il professor Guizzardi, anche lui noto parlatore. Quindi... Professor Guizzardi che insegna, per chi non lo conoscesse, perché qui c'è il problema del rapporto tra sociologi e teologi. Allora, per i sociologi ovviamente lo conoscono, se eventualmente i teologi, dico che è ordinario di sociologia all'Università di Padova, ma vecchio studioso di sociologia della religione. Intervengo ora perché vorrei intervenire sul titolo. Sociologia e teologia oppure sociologi e teologi a confronto? Non è la stessa cosa, l'avete notato, l'ha notato anche Burgalassi, però vorrei voltare la frittata. Il problema non è che in un futuro che qualcuno spera arrivi presto, qualcuno non lo so, ci siano dei laici che studino la teologia. Il fatto è che le categorie non sono due o quattro, sono tre oggi. Sociologi che sono clero, parte di voi qui presenti, sociologi che sono laicato, laici, io e altri, teologi che sono clero, e Burgalassi nota teologi che sono laici non ci sono. Vabbè, guardiamo sulle tre. Allora, se noi dobbiamo pensare sociologi e teologi a confronto, non è fra i sociologi e i teologi, ma fra due tipi di sociologi e fra l'unico tipo di teologi oggi esistente. Affermo che, secondo me, il rapporto sociologia-teologia è diverso per queste tre categorie. E per questo intervengo all'inizio, per dire che, nei limiti in cui ho ragione, posso avere anche completamente torto. Forse completamente torto no, difficilmente completamente ragione. Comunque, nei termini in cui c'è questa tripartizione, per queste tre categorie, sociologia e teologia, indicano delle cose diverse, appunto perché giustamente si vuole impostare la questione a livello relazionale. In particolare, i sociologi che sono clero hanno un rapporto con loro stessi quando affrontano la sociologia o la teologia, perché, e qui Capraro mette in luce un sugo che è nel suo discorso, la sociologia, anche la sociologia della religione, è vista, è tenuta a essere, qui lascio a voi l'interpretazione, laica. Nel senso che è lontana dall'aspetto applicativo, che fare per mantenere in piedi la fede, la religione, l'organizzazione, l'istituzione, non lo so, che fare per fare andare avanti il messaggio. In questo senso qui, la posizione su cui io vorrei che ci pensassimo davvero è quella esposta da Prandi, che è qui presente, perciò spero che intervenga, quella che per un sociologo, o meglio per la sociologia, quello che c'è un problema, questo dell'ateismo metodologico. Ed è quello, grosso modo, che non è ateismo filosofico, ma che non si chiede, in effetti, dove vanno a finire le analisi che vengono fatte, le compie. Non ha questo aspetto progettuale applicativo sulla religione, ma ragiona a livello metodologico come se Dio non fosse, non a livello filosofico, non a livello fenomenologico esperienziale. In questo senso qui, anche per un laico, crea problemi, perché si deve sdoppiare in un certo modo fra il suo essere sociologo o studioso in un certo modo e essere credente o non credente nell'altro modo. Anche un laico ha questo problema. Individuo che c'è allora quest'altro punto, ricordo, c'è quest'altro punto che mi pare sia ampiamente importante, grave forse, su cui forse vale la pena di pensare, ecco, in che modo è possibile un ateismo metodologico per la sociologia e per i sociologi che sono clero. Lo avvertite, non l'avvertite, non lo so. A sostenere un po' la mia affermazione, noto che in questo bel rassegna di introduzione di Capraro ci sono dei punti che contrastano con questa impostazione. Penso perché Capraro non è d'accordo sull'impostazione di Prandi, però sarebbe interessante sentire la discussione, perché mi segno qualche nota che a pagina 9, per esempio, quando si parla di norme sociali, patto, persona, rete societaria, eccetera, ho messo note a margine, è una situazione che descrive, si sta descrivendo la situazione, o si dice che cosa piacerebbe che è un dover essere, è un dover essere auspicato, è un'utopia che viene proposta, è una interpretazione della situazione così com'è, che piaccia o non piaccia, ecco. Allora, c'è sempre da distinguere, e c'è anche in tutto il testo, quando si fanno delle ricerche e si vede se la gente crede o non crede, lì è pura descrizione. È una descrizione anche che tutti sanno, non si sa neanche quanto sia accettabile la puro flatus vocis di chi parla, bisogna decodificarlo, interpretarlo. Allora, c'è per un verso questo tipo di sociologia che fa delle ricerche, delle survey, ci crede a quello che viene detto, secondo me si sbaglia, comunque elabora poi e dice questa è la situazione. Poi c'è un altro tipo di sociologia che è molto più fondata sul dover essere, cerca di più i concetti che gli vanno bene perché sono quelli che gli piacciono di più, cioè che gli piacerebbe, che è un prospettivo utopistico, utopica meglio. Ci sono almeno due o tre anime dentro la sociologia. E allora, scusatemi, adesso chiudo, volevo solo indicare che esistono questi aspetti e che perciò vanno sceverati. Se ci si colloca in un punto, non stiamo a far confusione a collocarci anche nello stesso tempo nell'altro. Andiamo, mettiamoci un po' da una parte sola, un po' alla volta, ecco, per non finire per essere poi alla fine in accordo o disaccordo, magari non completamente fondato. Ecco, avete visto che siamo finiti sui temi che avevo prefigurato ineluttabilmente, secondo me giustamente, anzi ringrazio Guzzari di aver posto il problema nel cuore dove il problema si trova. Devo dire però che con tutto rispetto per il mio amico Prandi, di cui non ho letto la cosa, la tradizione dell'ateismo metodologico ha una ricchezza fenomenologica alle spalle che, di Berger e Luckmann, che è la fonte, credo, più... Devo dire che io non la condivido molto. Non la condivido molto perché credo che il problema conoscenza spendibilità sia un problema in qualche modo che c'è dentro le cose. Casomai il problema che giustamente veniva posto da Guzzardi è quello di esplicitare tutta una serie di cose che si vogliono in qualche modo prendere in esame. Perché io credo che anche nell'ambito dell'ateismo teologico poi si giunge in qualche modo a fare proposte di natura operativa o a non farle, ad star fuori dalle cose. Sappiamo il dibattito che c'è stato in campi diversi sulla spendibilità del conoscere e la critica feroce degli anni 60 e 70 a questa sociologia che non voleva farsi investimento sociale, spendibilità, orientamento. Quindi credo che in qualche modo questo sia un problema vastissimo rispetto al quale però il tirarsene fuori sia sostanzialmente impossibile, tanto vale esplicitare, mettere in chiaro le categorie rispetto alle quali si agisce e si investe. Secondo punto che pongo con Guzzardi è che la sua posizione mi sembra un po' troppo deterministica in questo senso. Sappiamo bene come sociologi della conoscenza che tra la condizione di chi conosce e il prodotto di questa conoscenza ci sono relazioni. E quindi è evidente che i sociologi come tali, che producono certe cose, sono condizionati dalla loro situazione. Ma questo non è così determinato. Sappiamo che ci sono state situazioni nelle quali una produzione di questo, mi ricordo di un dibattito proprio sul povero milanese che è morto, posizione che tu dici era esattamente invertita. Quindi, insomma, non c'è un determinismo, c'è sicuramente una, secondo me, una tendenza, ci può essere e deve essere colta e giustamente studiata una tendenza di questo genere, ma non la assumerei come determinata obbligatoriamente tale. Terzo punto, ecco, questo sul professor Borgalassi, che è una domanda che rivolgo a lui, poi immagino interverrà, oggi parla tutto il giorno, quindi immagino che non ci si abbia molta possibilità di rispondere. Perché non esiste una teologia laica? In fondo tutti i filosofi, i metafisici post nostri, dei nostri periodi, che si occupano di questi problemi e che si occupano dei luoghi della fondazione, del vivere e del sapere, e quindi vanno a questo livello, sono assolutamente, secondo me, annoverabili nell'ambito di una teologia laica, non so come definirla, insomma, da questo punto di vista. Qui però chiedo ai teologi e ai filosofi, io non è mio compito. Prego, prego. Terrin, Aldo Natale Terrin, professore. Ecco, questo lo conosco, scusami. Aldo Natale Terrin, professore anche nel nostro istituto, oltre che a Santa Giustina, al corso di liturgia pastorale di Santa Giustina a Padova. Terrin. Dunque, proprio il problema dell'ateismo metodologico, a me sembra che sia un problema che dovrebbe essere messo al bando dal punto di vista del metodo, perché ciascuno ha le sue precomprensioni. Ciascuno ha il suo mondo di vita, ha la sua Lebenswelt, e noi dobbiamo cercare di trovare degli accordi a partire da quello che siamo e da quelle che sono le nostre precomprensioni. A me pare che i sociologi abbiano del tutto dimenticato o non conoscono abbastanza una visione ermeneutica che ormai si è imposta nella filosofia e che in fondo parte dal principio che uno è a partire dalla sua esperienza e non può tirar fuori quello che non ha. Perciò se un accordo deve venire, e naturalmente tutti i teologi e sociologi devono cercare un accordo minimo di convenzionalità sulle idee che dicono, devono partire, nonostante tutto, dalle precomprensioni di un campo e dall'altro. Da una parte, più dal punto di vista, direi, del Verstehen, del comprendere, allora, e direi, ecco, l'ambito dei teologi o dei fenomenologi, a mio avviso. Dall'altro lato ci sarà più il punto di vista dell'Erklären, della spiegazione, ma tutti e due dovranno stare molto attenti, perché nessuno lavora senza precomprensioni, e dobbiamo dare atto che ogni nostra espressione in campo sociologico, teologico, filosofico, in fondo è portata dai nostri convincimenti. È inutile qui, altrimenti questa questione di metodo non usciremo mai dalla questione di metodo. Io ho scritto proprio un libro, Spiegare o comprendere la religione, e direi che qui il punto diventa di nuovo fondamentale e focale. Non riesco a capire perché un sociologo deve mettersi dal punto totalmente, dico, dell'ateo metodologico. Nelle scienze della religione ci sono pure quelli che dicono noi facciamo religione senza tener conto dell'esperienza religiosa. Ma a mio avviso, ecco la precomprensione che entra, studiare la religione senza un minimo di precomprensione religiosa significa studiare musica senza avere un minimo di orecchio musicale. Max Weber stesso diceva che sono stonato per la religione, ha fatto tanti studi, però a mio avviso qui entra il problema di una specie di Einführung che è preparatoria e in qualche maniera propedeutica, ma è anche necessaria. Altrimenti si resta estranei, a mio avviso, al mondo che si studia. Uno non può studiare quello per il quale non ha nessuna affinità di nessun genere, a mio avviso. Perciò mi va benissimo l'ateismo metodologico, ma allora studiamo non la religione, ma i fenomeni che sono a margine, fuori dalla religione, tutto ciò che non è religione. O meglio, diciamo che la religione non è religione. Dovremmo dire, al limite. Perciò mi sembra che questa sia, tra l'altro direi che anche in campo sociologico, mi sembra che abbiamo delle tesi ormai molto avanzate, dove per esempio la fenomenologia di Schutz parla di una immedesimazione, una presa di contatto con, di uno studiare le intenzioni e i sensi profondi di chi vive e compie un'azione anche socialmente. La fenomenologia di Schutz e poi dopo tutta, direi, tutta la etnometodologia che si è andata via via sviluppando in questi ultimi anni, a partire per esempio da Garfinkel, da Goffman e altri, ci rimettono in discussione, a mio avviso, quelli che sono i principi fondamentali e basilari di una metodologia estranea al mondo religioso. E dunque io sono molto perplesso e addirittura direi che qui ci si divide già, se non si ammette un minimo, e finisco subito, un minimo di precomprensione necessaria da tutte le parti, e se nello studio della religione non si ammette che sia necessario un minimo di esperienzialità religiosa. Grazie. Allora, questa è la posizione di Terrin. Io ormai, per capire, sto assumendo una posizione dialettica, devo dire che non sono d'accordo. Se questo fosse vero, credo che ci sarebbe il 10% della produzione sociologica rispetto al 100% che c'è, ma soprattutto, voglio dire, questo fa sì che sia impossibile un'epistemologia della tolleranza, perché vuol dire che è impossibile studiare empaticamente la diversità radicale da te. E quindi vuol dire di fatto impossibilità di studiare se non te stesso. Perché cos'è l'empatia sostanzialmente? È studiare l'altro secondo categorie che appartengono all'altro, secondo le sue categorie, e capirlo a partire dalle sue categorie, mediandole con le tue, potendo essere messo in discussione dall'altro. Il che vuol dire una diversità, la possibilità di studiare la diversità. Il che vuol dire che ci sono stati stupendi libri di non comunisti sul mondo comunista, no? Per esempio. Eppure erano totalmente strani e sono libri che resteranno nella storia. Ma soprattutto il problema epistemologico, Michele, mi sembra quello che se non si parte da, questo lo dico coram populo, se non si parte dal fatto che è possibile studiare il diverso radicalmente da te a partire anche dalle sue categorie e quindi costruire la verità da questa interconnessione, mi pare che si studia solo se stessi. Dunque Capraro chiede la parola perché? No, per avvertire che ci sono due persone che si sono messe in nota. Questo... No, ma dico, e salutare il professor Renzo Guber. Vabbè, che professor Renzo Guber, salutiamo, scusami. Allora, abruzzese. No, c'era Brandi per la verità. No, scusa, va bene. Scusami. D'accordo. Facciamo due cermanati. Prego, abruzzese. Dopo. Molto brevemente, tanto ritorneremo sull'argomento durante la giornata diverse volte, ma io penso che naturalmente faccio anch'io mia la posizione del professor Cipolla con una citazione tra virgolette nota a tutti: non occorre essere Cesare per intendere Cesare, tutti quanti voi sapete bene conoscere questa frase. Ecco, quindi il problema fondamentale, penso che forse più che parlare di ateismo metodologico bisognerebbe parlare probabilmente di agnosticismo metodologico, nel senso che sostanzialmente dinanzi a una persona che porta dentro sé una fede verso delle realtà trascendenti, io prendo atto di questa sua credenza, cerco di comprenderne quali sono le manifestazioni, cerco di farmela spiegare, non entrando mai all'interno di me stesso nell'ambito del discorso se questa credenza sia vera o falsa nelle sue dimensioni ultime. Questo non implica una mancanza di rispetto nella credenza della persona religiosa con la quale io sto colloquiando in quel momento. Implica semplicemente il fatto che non posso, mi è sostanzialmente impossibile per me sociologo fare mie tutte le visioni del mondo delle persone che incontro, ma non perché non siano valide di per se stesse, ma perché un conto è il piano della ricerca e un conto è il piano della condivisione delle scelte in cui ci imbattiamo. scelte che i singoli soggetti hanno fatto, scelte che io posso osservare dall'esterno, posso chiedere loro ragione di quelle scelte compiute, non posso farle ipso facto anch'io. Ecco, è questo secondo me la parentesi che io introdurrei parlando di agnosticismo, tra virgolette, sì, metodologico. È un'altra tradizione. Ecco, rispetto ad abruzzese, l'unica cosa che io dico è che rinunciare alla categoria della verità diventa problema drammatico e in ultima istanza anche i portatori della tradizione costruttivistica più radicale o dell'idealismo più spinto non riescono poi a portarla fino in fondo, perché in ultima istanza, no, la famosa frase, vabbè allora buttati dalla finestra, vediamo se vivi o meno, di fronte a una posizione come questa, per cui è vero o falso, evidentemente uno dice è vero, allora c'è qualcosa di vero su cui dobbiamo, con cui dobbiamo fare i conti, altrimenti andiamo nel relativismo più sfrenato e nel contingentismo e di nuovo non si studia che se stessi. Professor Prandi, adesso... Dunque è un po' un destino che con il professor Terrin ci si debba scontrare. Proprio. Ma dato, io spero che prossimamente si comincerà a discutere di questioni un po' più concrete, però visto che si sta discutendo sui massimi sistemi, io insisto su questo punto perché fra l'altro un punto su cui stiamo discutendo, abbiamo scritto insieme io e Filoromo, su perché è un problema quello dell'agnosticismo, dell'ateismo religioso. Io la relazione cui fa riferimento Capraro di questo volumetto, fra l'altro è molto bello, è una relazione che ho fatto in America in dicembre su From an Agnostic Point of View, cioè è l'agnosticismo quello a cui io fatto riferimento, era più che altro per cercare di sciogliere questo, che forse non si scioglierà mai, perché non lo sceglieremo certamente qui, questo impasse tra l'Erklären e il Verstehen. Io sono convinto e sono un po' figlio, e sono credente, non ho problemi, sono un po' figlio della scuola storico-religiosa di Roma e di Petazzoni, sono gente che hanno vissuto in una definizione precisa del loro ateismo e che sono produttore di storiografia religiosa di altissimo livello. Fra l'altro c'è un saggio di Petazzoni il quale insiste, purtroppo i suoi allievi non l'hanno mai seguito, nell'indicare la necessità che la fenomenologia si vestisse di storia e che la storia si vestisse di fenomenologia. Questo è il problema. D'altra parte io non sono affatto convinto che occorra, certo occorre avere una sensibilità religiosa, essere vicino alle tematiche religiose per comprenderle, ma non è necessario essere religioso come tu dici nel tuo libro, quando dici che se non si è religioso è come se esplodesse la bomba atomica, tu usi proprio questa terminologia. Non capisco perché la religione debba necessariamente essere sequestrata, no, da qualcuno per poterne lavorare, altrimenti è fuori, non ha sensibilità, non ha comprensibilità. Abbiamo una gran quantità di produzione nel campo storico-religioso, perché è quello che frequento di più di quello sociologico, che si dà delle grandi produzioni di alta qualità da parte di autori, penso De Martino, soltanto stando qui in Italia, stando a Petazzoni, quando ci hanno dato delle notevoli testimonianze di capacità di entrare nelle tematiche religiose senza essere direttamente coinvolti, ma non è il problema quello di continuare a litigarsi stando così come su queste due file di seggiole. Io credo che ancora oggi si possa ritornare su delle tematiche su cui sto riflettendo e di cui Troes, in particolare Weber, sono ancora dei maestri, quando si parla di autonomia relativa del religioso, ed è questo il punto essenziale. Vorrei dire, il religioso non è né quello che indica Otto come una specie di sfera chiusa che si regge su se stessa, non è nemmeno qualche cosa da riferire ad altro, all'alienazione o alla nevrosi collettiva, vi dicendo. È una realtà che ha le sue radici, ma che è continuamente vestita di storia. L'essenza del cristianesimo di Trotsky è una cosa straordinaria da questo punto di vista, quando ci fa riferimento al messaggio originario che continuamente deve rifarsi alla storia per essere completamente scoperto, il che vuol dire che la storia agisse sui fatti religiosi, sulle realtà religiose e le riscopre, ma sempre salvando una specificità. Quindi il problema è quello di saper giocare sui due fronti senza accapigliarsi. Io poi non ho anche la possibilità di accapigliarmi, ma certamente in questo ambito la possibilità del dialogo è forte. Quando sul tema dell'autonomia relativa, che credo che sia forse l'unica via di mezzo oggi praticabile, è possibile stabilire una epistemologia di ricerca storico-religiosa che non ci divida in campi così separati e incomunicanti. Dunque, grazie per il professor Prandi, perché senza che probabilmente lui lo sappia, io sono perfettamente d'accordo con lui sul concetto di autonomia relativa, forse che andrebbe sviluppato, ma che comunque credo sia uno dei modi per un'epistemologia della tolleranza che possa mettere insieme più prospettive. La cosa però che mi sembra di un certo interesse è questa: nulla può essere ridotto alla sua storia, però, ecco, questo mi sembra un tema sul quale in qualche modo come sociologo bisogna anche riflettere, perché altrimenti ripetiamo semplicemente il passato e non andiamo. Il discorso dell'autonomia relativa ci porterebbe lontano, casomai dopo possiamo rispondere. Allora, adesso si è iscritto a parlare il professor De Sandra. C'è qualche un altro? Renner, Paolo Renner, Brixen. Il fatto di dover venire qui al tavolo rende un po' più rigide le cose. Tanto per allargare i problemi, io volevo fare uno o due flash. Il primo era questo. Leggendo, tutti stanno facendo giustamente i complimenti a questo lavoro di Giuseppe Capraro. Io ho avuto un problema alla fine. Gustavo ha sollevato il problema del titolo Sociologia e Teologia o Sociology e Theology. Io sollevo un problema, fino a che punto anche questa mattina e poi al convegno si parlerà di sociologia e religioni, prescindendo dal fatto di parlare della religione cattolica, e poi quando si parlerà di sociologia e teologia cattolica o religione cattolica. Perché è vero che anche nel testo si parla in alcuni punti all'inizio di religioni in generale, però è vero che poi si parla prevalentemente. Io credo che il dare questa qualificazione, cioè per esempio anche nel titolo, sociologi e teologi cattolici a confronto, non sociologi cattolici per cortesia, sociologi e teologi cattolici a confronto, forse chiarirebbe un po' di più. A me darebbe anche la sensazione di essere un po' più ecumenici, nel senso che si presume che i teologi in Italia siano cattolici. Invece esistono anche teologi di valdesi, eccellenti. Ecco, però questo non è un incontro con i teologi valdesi. Non so se rendo l'idea. No, è una scelta, è assolutamente legittima. Io dico però che il repertorio linguistico di un incontro tra sociologi e teologi cattolici è diverso dal repertorio linguistico eventuale. Ecco, mi pare che questa attenzione, che io ho qualificato ecumenica, ma è un'attenzione anche di tipo scientifico, forse varrebbe la pena di prenderla in questione. Il secondo problema però che volevo toccare, perché visto che era un po' il tema di questa mattina, e il problema è che cosa ne pensiamo come sociologi, io sono sociologo laico, sulla capacità o la possibilità della sociologia di analizzare il futuro, perché sembra che questo sia uno dei temi di questo dibattito. Allora, io l'ho detto però quando ho parlato con Capraro nella preparazione di questa cosa, da cui penso venga anche così la proposta che a qualcuno avrà fatto meraviglia di fare una relazione sul problema della comunicazione. Io, appena sono entrato a lavorare con Acquaviva a Padova, subito sono stato invitato a studiare la futurologia, perché Acquaviva è sempre stato interessato, almeno io l'ho conosciuto agli anni 66-67, sempre la futurologia. Quindi ho digerito De Juvenel, eccetera, eccetera. Sono arrivato a dilettarmi del problema della futurologia fino a quando è uscito il lavoro del Club di Roma, che tutti hanno conosciuto come I limiti dello sviluppo. laddove la futurologia più scientifica ha messo in piedi un sistema di 500 e passa equazioni in cui ha tentato di captare, e ha captato una cosa importantissima, esattamente il titolo, I limiti dello sviluppo. È uscito nel 68 il rapporto, nel 73 c'è stata la crisi petrolifera. La cosa interessante, allora, su cui ho ragionato ulteriormente, dopo il 68 ci sono stati i movimenti, non c'è stata una transizione da un sistema ad un altro. Il tema del futuro, a me pare che in sociologia sia in qualche modo liquefatto, non tanto perché poco interessante, ma perché troppo complesso da maneggiare. E ho usato questo aggettivo perché in realtà un po' alla volta è cresciuta proprio l'idea di complessità. I sociologi ne hanno ragionato un po' i primi anni Ottanta, però adesso l'idea di complessità a cui faccio riferimento è l'idea piuttosto di Edgar Morin, cioè un'idea di complessità, diciamo, epistemologicamente più aggiornata. Ecco, secondo me uno dei problemi gravi che la sociologia ha dovuto affrontare è il problema che il futuro non è più così chiaramente delineabile, pur sotto molte versioni, eccetera, eccetera, perché in fondo il futuro fa sempre parte di un certo tipo di evoluzionismo che sarà multilineare, ma che in fondo è ancora individuabile. Mentre invece di fronte c'è una nuova prospettiva di pensiero, penso appunto al pensiero complesso, al pensiero ecosistemico, in cui non è che il futuro manchi, è che si tratta di ridisegnare il modo con cui si connette lo stesso modo di pensare, lo stesso modo di conoscere. Allora, è per quello che io personalmente, quando penso al futuro, penso a un qualche cosa di molto interessante, molto importante, ma rispetto al quale noi prima dobbiamo fare dei passi epistemologici e dei passi conoscitivi che sono essenziali. E allora è per questo che, secondo me, nel cammino verso il pensare il futuro bisogna fare un cammino all'interno del pensiero complesso, all'interno di un pensare ecosistemico, però che non è solo un pensare ecosistemico, ma che da questo pensare ecosistemico riesce anche a immaginare dei cammini interdisciplinari, dei modi diversi di vedere il rapporto tra individuo e collettivo, di individuare i rapporti tra ordine e disordine, che secondo me sono invece importanti e rispetto al quale, ecco, a mio avviso, il problema della comunicazione è un problema fondamentale. Allora, adesso, a parte queste mie riflessioni già di contenuto, quello che mi interessava dire è, mi piacerebbe sentire in termini, se volete anche informali, che cosa ognuno di presenti pensa sulla, come potrei dire, sulla chiarificabilità del futuro. Perché io ho delle forti perplessità, ma non perché mi chiuda allo studio del futuro, non so se ho chiarito il pensiero, e non perché non pensi che ci sia un sacco da fare per far fronte a questa grossa evoluzione conoscitiva di cui abbiamo sentito adesso un momento alcuni frammenti tra un certo tipo di atteggiamento metodologico, un atteggiamento fenomenologico, un orientamento di tipo ermeneutico, perché proprio questi atteggiamenti conoscitivi, come si può dire, ci costringono a dei passi diversi. Tra parentesi poi, e qui finisco, questa crisi del futuro è uno dei problemi che è emerso grossissimo proprio nelle ricerche sui giovani, perché proprio diciamo, i giovani si dimostrano come degli indicatori molto forti di questa, non certo assenza di futuro, ma di questo collasso nella capacità di, come potrei dire, di controllare, di tenere sotto controllo, se non altro conoscitivo, il futuro. Per cui io volevo qui solo fare un interrogativo a ciascuno di voi. Grazie. Ecco, è chiaro che se parti dalla prospettiva ecosistemica, bezzoniana o moreniana, evidentemente il problema del futuro, con la caduta di ogni rilevanza dell'intenzionalità e con la critica feroce al finalismo cosciente, con la riduzione dell'uomo filo d'erba, con la rete sistematica di relazioni che sostituisce ogni progettualità individuale, evidentemente il problema del futuro diventa problema. Ecco, adesso non voglio rifarmi gli appelli all'estetica, alla bellezza di Bezzan, che sono soluzioni, come dire, che ho criticato analiticamente in altre sedi, perché questo aprirebbe un altro fronte. Credo però che se la prendiamo dal versante ecosistemico, che individuo in Bezzan, perché qui bisogna capirci, perché ci sono siccome filoni molto diversi tra di loro in questo pensiero della complessità, che va da Luhmann, Morena, Bezzone ad altri autori, ecco, se la prendiamo da questo versante, evidentemente mi risulta molto difficile uscire da una logica sostanziale di impotenza e di mancanza di progettualità, perché qui non è neanche un problema di pensiero debole, è un problema di pensiero. E comunque adesso c'è Renner che si è iscritto a parlare. Teologo della facoltà teologica di Bressanone e docente. Grazie. Anche a... Grazie. Primo teologo, no, sì. Il primo teologo che è docente anche qui all'Istituto di Scienze Religiose di Trento. Con Terrin siamo colleghi, perché lui insegna anche. È filosofo, no, per dire, filosofo, è filosofo, sì. Fenomenologo, e insegna qui da noi antropologia delle religioni e storia delle religioni. Sì, quindi religioni orientali. Il terzo polo, la filosofia, veramente è una ricchezza per tutti. Ecco. Io lavoro più sulla teologia fondamentale e un po' la teologia delle religioni, quindi questo approccio ad altre esperienze religiose è un pochino dato. E devo mettermi un po' dalla parte di Terrin, non per creare il fronte teologi contro sociologi, per carità, perché dagli interventi precedenti mi sembra che non sia del tutto chiaro cosa si intende per religione. Riprendo le parole di Abruzzese: non posso far mie tutte le visioni del mondo che incontro. Qui c'è un vecchio schema all'opera, considerare la religione una Weltanschauung tra le molte possibili. E questa è una forte riduzione del fatto religioso, della singolarità, della unicità, della tipicità dell'esperienza religiosa. E non si tratta di una visione del mondo fra le altre, è forse un bisogno, qualcosa di più radicato, che emerge spesso in maniera imprevedibile, spesso in maniera irrazionale, spesso con tratti di magia, come segnato nel punto 3.3. E era molto più equilibrata la presentazione del professor Prandi, dove dice non si deve né vedere il religioso come un tutto a sé, una sfera chiusa, nemmeno ridurlo ad altro. Tuttavia anche il professor Prandi diceva devo avere la capacità di entrare nella tematica religiosa. Ebbene, il religioso non è solo una tematica, di nuovo lo si riduce, non volendo, a un qualcosa da capire, a un fattore di ragionamento, a un pensiero tra altre forme di pensiero. Secondo me il religioso è qualcosa di totalmente particolare, che non può essere sottoposto a questa dinamica di riduzione, e bisognerebbe forse distinguere tra il fatto religioso, la religiosità, il religioso, e i fatti religiosi, le singole esperienze in cui ciò si attua. E se forse si può anche parlare di una sociologia della religione e di una sociologia delle religioni. La sociologia delle religioni come disciplina descrittiva, come disciplina scientifica che analizza i fenomeni, cioè l'apparire del fatto religioso, è senz'altro disciplina aperta anche all'ateo, all'agnostico, questo fatto descrittivo delle religioni. Ma una sociologia della religione, il tentativo di comprendere la religione, questo fatto così forte, così violento, non sempre esprimibile in categorie, è un'impresa che, se non è compiuta da una posizione di profonda empatia, dall'entrare in quella lunghezza d'onda, rischia di naufragare. Faccio un esempio riferito al tema del futuro. Per i credenti, e non solo per i cristiani, mi pongo nella prospettiva che potrebbe essere condivisa anche da un musulmano, in buona parte da un induista, il il futuro non è solo un qualcosa che costruiamo noi, né solo un qualcosa che dobbiamo subire. Il futuro è sottoposto alla legge di una unverfügbare Voraussehbarkeit, di una prevedibilità, Voraussehbarkeit, che rimane indisponibile. Cioè, nella prospettiva del credente ci sono, è quella che Metz chiama la riserva escatologica, ci sono delle promesse da parte di Dio, sono delle promesse da parte dell'assoluto, delle aspettative certe nella prospettiva della speranza. Io so, in quanto credo, che Dio donerà all'umanità pace, benessere, redenzione e così via. Questa prospettiva di fede non può essere condivisa dal sociologo agnostico, che direbbe è una precomprensione troppo forte. Invece per il credente c'è questo atteggiamento di non rassegnazione, ma nemmeno di efficientismo assoluto, perché dice so che il futuro non è una utopia, ma è una eutopia, diceva Mazzolari, cioè un luogo bello, una prospettiva bella. Ecco, questa indisponibilità prevedibile o questa prevedibilità indisponibile è un fattore costitutivo dell'esperienza religiosa che penso sfugga alle possibilità di un'analisi sociologica, rientra in questa forse sfera anche della irrazionalità e ha a che fare con quel trascendente che è una categoria difficilmente accettabile dall'agnostico, per cui viene esclusa sistematicamente introducendo una fallacia metodologica. Faccio un esempietto per concludere. Conosco un professore universitario, una persona intelligentissima, opera nel centro Italia, il quale ha aderito anni fa ai Testimoni di Geova e crede fermamente che il mondo sia stato creato 6.000 anni fa e crede fermamente che tutti continueremo a vivere per sempre su una terra paradisiaca. Come si può coniugare il suo impegno accademico con questa irrazionalità, con questo emergere di una religiosità strana? Lascio la domanda aperta, grazie. Grazie. Sì, anche se però sono d'accordissimo con te sul piano, Renner, sul piano della forte empatia e quindi di uno studio dei fenomeni religiosi, non con due o tre indicatori raccolti a casaccio e quindi con la necessità di approfondire queste cose. Però non capisco perché il problema dell'indisponibilità prevedibile non faccia parte un po' di tutte le fedi, di qualsiasi ragione esse siano, e perché non possa entrare in uno studio dell'alterità. Cioè, non ho capito questo fatto, mi pone problema, dal momento che non debbo necessariamente accedere a quella fede. Scusa, col microfono guarda, se vuoi col microfono. C'è però un problema metodologico. Sì, se noi dobbiamo rispondere alle obiezioni di Cipolla, vuol dire che io sento il bisogno di rispondere all'interpretazione, in qualche modo così per esempio riduttiva. Sì, e non andiamo avanti oggi? No, ma capisci, allora è difficile, lo dico, sai, simpaticamente, non come... Va bene, allora niente, chiuso. No, ma c'è. No, c'è lo spazio del buffet. Un'ora. Non andiamo avanti oggi. Sì. Comunque volevo. Sì. Va bene, allora niente, scusa, allora, devo togliere la parola, allora chiedo scusa, lo faccio più Borgalassi. C'è. E poi c'è Pace e Gubert che sì, gli hanno chiesto. No, mi sentivo anch'io imbarazzato da questo modo fraterno che fa Costantino, perché il dire lui che è d'accordo o non è d'accordo travisa il nostro dialogo, perché l'accordo o il disaccordo poi dobbiamo formarcelo tutti insieme ascoltandoci. Tu interrompi con la tua visione e questo qui probabilmente danneggia la fruttuosità del nostro colloquio. Io volevo rispondere brevemente, volevo affrontare brevemente due questioni. La questione vecchissima, ma siccome sono vecchio, affrontata finora del rapporto tra sociologia e sociologi, teologia e teologi. E qui siamo nella patria di qualcuno che ha scritto qualche anno fa assiomatica e paradigmatica in sociologia. Quasi nessuno di voi l'ha letto, quel libro di De Marchi, che affrontava questo discorso. No, l'abbiamo letto e segnato. Esaurito. diciamo che esaurito. Sì. Che affrontava il problema della impossibilità ontologica di trascendere noi stessi. Noi stessi. Impossibilità ontologica di prescindere da quello che siamo. Per cui, quando Guizzardi fa le sue affermazioni, fanno parte del suo background, che sarà agnostico, ateo, come gli pare, ma di cui da cui non può prescindere, è lui. E quando il professor Bulgarazzi parla, tutti sanno che è un prete, per definizione credente, anche in realtà, ma per definizione credente, quindi non solo siamo già classificati, ma ci autoclassifichiamo nello stesso momento in cui pronunciamo i nostri punti di vista. Ci autoclassifichiamo tutti, nessuno può essere né ateo completamente né agnostico completamente quando studia un problema. È coinvolto, se non altro, in senso partecipativo, affettivo o non affettivo. Però io dico di più. Se noi ci attenessimo unicamente a un criterio scientifico stretto, di sottoporre quello che noi osserviamo e quello che noi descriviamo al confronto con altri e alla verifica con altri, probabilmente troveremmo qualche giusta misura per in qualche maniera indebolire il senso eccessivamente partecipativo del referente. Si è spento il microfono? No, è un microfono che... Parli lontano? No, so, si sente, non si sente. Pronto. Dicevo, secondo me io ho un po' di esperienza del dramma di essere prete cattolico sociologo. Cioè, di essere un prete che studia, che si sforza di studiare scientificamente le cose in cui crede. Questo è un dramma personale, perché tutte le volte che faccio la ricerca mi devo domandare, prima che me lo chiedano gli altri, ma quello che dico è frutto della mia fantasia? È un'interpretazione benevola a uso dei delfini? O se Guizzardi controllasse e effettuasse una riprova dei miei dati troverebbe gli stessi risultati? Questo è uno studioso serio, se lo deve porre per tutta la vita. E soltanto il confronto con gli altri può rispondere a questo quesito, non le autoaffermazioni. Perché ognuno ha delle precomprensioni di cui non può fare a meno in nessuna maniera. Però mi domando, vado avanti in questo argomento. È proprio vero che il sociologo estraneo al fatto religioso è capace di penetrare addentro all'esperienza religiosa? E questo io credo di no. Io non sono capace di interpretare saggiamente l'esperienza buddista, di descrivere un pochino, per quanto possibile, il fenomeno buddista, sì. Di descrivere le esperienze religiose, secondo me, no. Bisogna fare le esperienze per descriverle. Si descrivono male, si descrivono approssimativamente. Alberoni mi diceva, io posso descrivere l'innamoramento perché mi sono innamorato, o posso descrivere l'innamoramento degli altri perché loro hanno descritto il loro stato, altrimenti la fantasia. E la fantasia è un termine costitutivo della ricerca scientifica, ma non è il termine risolutivo. Allora, certi fenomeni religiosi, secondo me, hanno bisogno della empatia, hanno bisogno di forme di partecipazione per penetrarne la parte più densa e più interna, non per descrivere il fenomeno soltanto a livello superficiale. Secondo me non è nemmeno giusto dire che la sociologia non si pone scopi applicativi. La sociologia è nata con Conte con scopi applicativi. Conte la pensava soltanto come surrogato che dava risposte a tutti attraverso l'utilizzo della razionalità, non facendo ricorsi a paradigmi estranei, a paradigmi metafisici, ma facendo ricorso al dato. Quindi è nata, e la scuola di Chicago ha applicato la sociologia, la scuola, nelle esperienze di Elton, nelle esperienze di Maio, nelle esperienze. Quindi la conoscenza profonda di un fenomeno, perché non utilizzarla nella programmazione di cose programmabili? Non capisco questa limitazione. Perché un sociologo della politica non può la sua conoscenza spenderla per prevedere scenari possibili di attuazione politica? Mi sembra che questo sia normale. Chiaro che nella misura in cui la mia serietà di ricerca scientifica in campo sociologico si espleta massimamente, in quella misura anche le mie indicazioni di possibili vie, se io conosco la dinamica di un fenomeno, perché non utilizzarla per interessi in questo modo anche settoriali? Io sono sacerdote, perché non utilizzare le mie conoscenze per facilitare un dialogo, per facilitare la comprensione ecumenica, per eliminare distorsioni, per alleviare contrasti, per rendere più chiaro anche il perché del mio agire? Una seconda riflessione invece sul futuro. Anch'io sono stato preda come De Sandre dell'infatuazione acquaviviana, ma non perché me l'avesse detto Acquaviva, ma perché anch'io sono partito dall'esperienza di statistica della possibilità di predire il futuro aumentando la serie di matrici possibili, che è l'errore che sta facendo la meteorologia, la quale ritiene che con miliardi di possibili indicazioni prevede il tempo, poi ci accorgiamo che non riesce a prevedere perché dice non siamo capaci di avere tutti i possibili indicatori. Questa è l'utopia del progresso. Il problema è un altro. Secondo me il futuro non è prevedibile in termini statistici solo perché si basa sull'assunto che le tendenze messe in atto si possono estrapolare. Qual è l'assunto del meteorologo? Che la visione computistica della situazione di miliardi di punti in questo momento sia valida fra 5 minuti, fra 5 ore, fra 5 giorni. Fra 5 giorni non è più valida, come vediamo dall'esperienza comune. Questo è anche il problema nostro. Le nostre previsioni a base di dati statistico-empirici soffrono di questo difetto di base. Si basano sulla costanza delle mode, ma noi invece per prevedere le cose dovremmo utilizzare un parametro teologico, che è la capacità di profezia, perché nessun fenomeno vero è stato previsto da sociologi. Proprio neanche uno. Nessun fenomeno vero di breve 68 aveva previsto nessuno, perché sono fenomeni improvvisi. Lì ci arrivano più i filosofi o i mistici che non i sociologi, il che non è una spinta, un invito all'irrazionale, è l'invito a utilizzare il cervello per prevedere un futuro che si possa anche fantasticare come futuro possibile, non una profezia che si adempie, ma un futuro possibile, un'utopia che vogliamo realizzare. Grazie. Professor Pace, sociologo Università di Padova. Scusa, mi devo presentare. Sì, sì. Qui. Vorrei interloquire con Renne. Con Renne? Sì, perché l'esempio che ha fatto mi permette di chiarire il mio punto di vista. In altri termini, per farmi capire, in molte religioni c'è l'attenzione che lei diceva, no? Del già e non ancora. Questa attenzione produce un fenomeno che è l'attesa e i movimenti di attesa, le comunità che attendono, che si strutturano in attesa. Questo cosa diventa per me, che non sono teologo? Diventa un oggetto da studiare. Io posso fare una sociologia dell'attesa, che sta fatta. No, Salvatore la conosce, da De Roche e da Seguì. A questo punto però, come faccio per capire qual è, come dire, il meccanismo profondo che produce solo a livello di esperienza individuale e comunitaria, ma anche in termini di organizzazione. Ogni società attesa è anche uno studio dell'organizzazione dell'attesa. Bene, allora il mio presupposto metodologico è questo, che per capire l'attesa messianica in questo caso, io non posso non studiare il livello autoreferenziale che una comunità religiosa, un gruppo religioso produce. Devo studiarlo come sociologo, sennò, come dire, mi condanno a non capire quali sono i livelli di autoreferenzialità, diciamo, di una religione. A mio parere sono due, che qualche volta non si danno assieme, si dà una senza l'altra. Una è quella che diceva prima Bulgarassi, è il racconto dell'esperienza religiosa, che per me è fondamentalmente esperienza mistica. Se io voglio capire la specificità di un'esperienza religiosa in un contesto religioso, vado a studiare i mistici e come i mistici declinano questa esperienza. Per cui è possibile, secondo me, orecchiare il buddismo. Secondo livello, qual è l'altro elemento, questo è il titolo, qual è il secondo elemento di autoreferenzialità? È la riflessione sulla religione fatta da uomini che ci credono. La religione della religione si chiama in contesto protestante cattolico teologia, in altri contesti si chiama halim, cioè la dottrina sapienziale. Anche lì ho bisogno di fare i conti. Allora, quando io, onestamente assumo questo metodo, voglio capire l'attesa messianica, utilizzo i linguaggi propri prodotti in termini autoreferenziali di un contesto religioso, che tipo di metodo è questo? È un po' il metodo. Qui vorrei un po' esplicitare il discorso che faceva prima Plante, che forse è rimasto trunco, è il metodo che assume come principio l'autonomia della sfera religione, cioè autonomia nel senso che è capace la religione di produrre un suo linguaggio, un suo principio di funzionamento, e se io non ne tengo conto, non me ne approprio, non riesco a capirlo. In questo senso sì, però questo secondo me fa fare un... Mi chiedo, io credo di fare un passo avanti rispetto al problema da cui siamo partiti oggi, che mi pare un po' anni 60, un pochino all'inizio, no? Questo dire un po', vabbè, abbiamo conosciuto questo dibattito. Noi siamo entrati probabilmente in una fase storica nella quale, per una serie di circostanze favorevoli, è possibile fare sia la sociologia che la teologia, ma anche viceversa, cioè è possibile fare una teologia che non necessariamente debba esprimere giudizi di valore sul contingente, perché il problema storico che noi abbiamo avuto è che sia la sociologia che la teologia hanno, come dire, sono state spesso macchine da guerra non contro le altre armate. Secondo me storicamente questo è finito. Ed è possibile forse trovare altri terreni, e questo è il discorso che faremo oggi, che mi servo dopo di dire su quali terreni. Grazie. Allora, Gubert, sociologo, Trento e varie altre cose. No, mi scuso di essere arrivato un po' tardi, quindi può darsi che non abbia colto tutto il senso del dibattito di questa mattina. Però mi par di capire che ogni volta che io vedo descritta l'esperienza religiosa dai sociologi, ma dico questa non è religione, ogni volta che il teologo mi spiega che cos'è la religione, questa non è religione. Cioè, secondo me, la mia esperienza è questa, la religione è un qualcosa che non è colto né dalla teologia né dalla sociologia. Quando uno fa esperienza di famiglia, non va mica dallo psicologo a capire, se si guarda lo psicologo o lo sociologo non capisce che cos'è il rapporto tra padre e madre, o tra figli e padri. È un'esperienza. Se uno c'ha mal di denti, non va a leggere il testo di medicina per capire cos'è il mal di denti, è un'altra roba. Quindi dobbiamo metterci in testa che l'esperienza, il sapere per esperienza che ciascuno di noi ha, non è mai cogliibile né nessuna disciplina che usa della razionalità, che usa di metodi scientifici in un modo empirico o non empirico, anche se qui sulla teologia o sono meno armato dal punto di vista dello status epistemologico, ma certamente della sociologia. Quindi che cosa coglie il sociologo della religione? Coglie quello che appare, il dato, come riesce a penetrarlo, in ogni caso può arrivarci più in profondità, meno in profondità, dipende dalle sue capacità personali, dai suoi strumenti di analisi, ma non mai arriverà a capire l'esperienza religiosa di chi la vive. Questo è un dato incommensurabile, riuscirà a avvicinarsi a qualche cosa, forse, no? E quindi io non sono mai stato sociologo della religione, ma vi confesso, quando ho partecipato a qualche convegno di sociologia della religione, ho capito esattamente che parlavano di qualcosa d'altro di quello che io sperimentavo come uomo religioso. Quindi credo che anche, e questo penso valga anche per i teologi, non valga solo per i sociologi. Ci possono, ecco, vabbè, questa è una prima considerazione. Quindi il sapere per esperienza è qualcosa che in tutti i campi della vita, non solo in quello religioso, è diverso dal sapere scientifico, il quale è sempre riduttivo, coglie qualche aspetto qua e là. Poi l'altro discorso, come mi pongo io da credente rispetto al far sociologia della religione, al far sociologia? Io credo che sbaglio se penso di capire meglio, di far capire agli altri meglio che qual è. Sbaglio perché c'è sempre questa incommensurabilità tra il lavoro scientifico e il lavoro. Quello che io faccio da credente e nei riguardi del mio essere sociologo. E dico, se è vera la teoria, l'ipotesi, l'esperienza che io faccio da uomo religioso, avrà dei riscontri constatabili? Avrà dei riscontri constatabili? O è tutto chiuso dentro nella mia testa? Tutto immaginario? Allora, quello che io posso fare da sociologo credente è quello di capire se nelle realtà concrete, osservabili da tutti, comparabili con tutti, e ha qualche lume di verità il fatto che la risposta religiosa sia una risposta più appagante, più umana di quella non religiosa. E questa è la sfida che io ho come sociologo davanti rispetto al mio essere credente. Poi due parole sulla sociologia e futuro. Io credo che dobbiamo anche qui distinguere quello che gli epistemologi distinguono sempre tra prevedere il futuro e fare la previsione scientifica, sono due cose diverse. Se io chiedo al fisico di prevedermi la velocità, quanto tempo impiega una piuma a cadere da quel soffitto là, non riesce mica a prevedermi quando è il tempo, riesce solo a dirmi che se metto nel vuoto il tempo è questo. Quindi la previsione scientifica è condizionale, cioè stabilisce delle condizioni, se allora succederà questo. Allora voglio dire, lo spaventarci di fronte al fatto che è difficile prevedere il futuro è lo spaventarsi di fronte al compito della profezia, non spaventarsi di fronte al compito della previsione scientifica, però noi dobbiamo porre le condizioni e stabilire relazioni tra antecedenti e conseguenti, e questa è la previsione scientifica, che poi si verifica o non si verifica con antecedenti e conseguenti, nulla ha a che fare con la capacità di fare previsione scientifica. Allora, la complessità di oggi nulla dice sulla impossibilità della sociologia di fare previsione o di altre scienze di fare previsione. Dice perché? Perché il compito è più limitato, non è prevedere il futuro, ma è fare una previsione condizionale. Fare una previsione condizionata a... Poi un'ultima notazione. Siamo proprio sicuri che non siamo vittime, come nel caso prima, siamo vittime dell'impostazione positivista, cioè pensiamo che la scienza sia quella che coglie la totalità dell'essere, quindi questo ci fa fare lo sbaglio. Qui siamo vittime dell'impostazione storicista, per cui pensiamo che il mondo cambi tutto in qualche direzione. Io sono sempre più convincendomi che ciò che cambia è l'epifenomeno, e sotto c'è qualcosa che resta duro e solido. Ecco, e mi sto concentrando studiando l'appartenenza territoriale, un fenomeno che abbiamo studiato, no? Ecco, e ci si accorge che certe radici dentro la natura umana sono così profonde che santo Dio cambiano i mondi, oppure qualcun altro comincia a leggersi qualche cosa di Machiavelli, o comincia a leggersi qualcosa dell'antica Grecia e ritrova elementi che sarebbero presenti ancora oggi nella nostra società. Allora, non è forse il caso di rovesciare l'ottica, di dire che cosa permane, che cosa permane e che cosa cambia, e come ciò che permane condiziona ciò che cambia. Ecco, perché questa idea del che il tutto cambia, secondo me, non trova molto, molto fondamento. Ecco, Parettiana questa lettura. Ma io credo che sia parettiana, però sarà parettiana, però trova dei fondamenti. Quindi poi è chiaro che le cose della storia non sono indeterminate, no? L'idea che non si possa prevedere niente perché tutto è complesso, non è vero, cioè tutto è complesso, però voglio dire, c'è un'inerzia. Il dire che è difficile prevedere non vuol dire che non ci siano delle costanze. Allora io credo che anche i metodi di previsione grossolani, tipo quelli della statistica, delle proiezioni, in qualche misura aiutano, almeno quindi non sarei così pessimista da questo punto di vista. Grazie. Trentin, teologo Padova. Teologia morale. Cos'è Trentin? Non ti conosco, no? Presidente della facoltà teologica, però scusami, ho già ragione. Il dibattito in corso mi sollecita a fare due considerazioni. La prima, sul senso di questo dibattito, che riguarda il confronto tra sociologi e teologi di fronte al futuro. Se ho capito bene, questo dovrebbe essere l'oggetto delle nostre considerazioni, delle nostre riflessioni. Allora, a me interesserebbe molto, primo, sapere se è possibile una futurologia e fare futurologia in assenza di futurologi, se esiste la scienza. Mi interessa sentire qualche risposta all'interrogativo sollevato da De Sandre, se i sociologi possano o non possano dire qualcosa sul futuro, altrettanto ovviamente dei teologi. E comunque, se tutti noi insieme possiamo dire cosa pensiamo sul futuro e affrontare quindi il problema del futuro. Questa è la prima osservazione che volevo fare. La seconda riguarda il problema che è stato sollevato del rapporto tra precomprensione e comprensione scientifica di un fatto, di un fenomeno. Se ho capito bene, anche qui nel campo dei sociologi si sono aperti due fronti, io rischio di aprirne un altro sul campo dei teologi, perché mi sembra che una riflessione critica sull'esperienza di fede, e questa è la teologia, ha sempre un carattere carismatico. La teologia è nata e nasce come carisma, come dono, come esperienza di fede. Però poi, come dice Congar, la teologia è passata dalla sacra pagina, diciamo, dei padri, alla riflessione da solo una veste intellettuale come Abelardo, e quindi guai se noi rinunciassimo a questo carattere critico, in senso scientifico, razionale, della nostra riflessione. Quindi un carattere anche disinteressato, oggettivo, non faremo un buon servizio alla fede e ci metteremo anche nella impossibilità di comunicare questa fede attraverso appunto questa riflessione scientifica. Io qui vorrei forse suggerire una distinzione che ho trovato utile nel mio lavoro di teologo moralista, che riflette quindi sui problemi che riguardano la prassi, l'operatività, l'agire. Ed è la distinzione tra la funzione, chiamiamola così, storico-genetica o storico-operativa, che ha ogni precomprensione ideologica, filosofica e anche religiosa, e quella che noi chiamiamo la fondazione, l'argomentazione, che ha evidentemente un carattere teorico, dove la fede non può mai surrogare la ragione. Invece a livello storico genetico e a livello storico operativo la fede e ogni precomprensione filosofica svolge un ruolo, a mio parere, importantissimo, irrinunciabile e assolutamente da recuperare anche all'interno della teologia. Potrei fare un piccolo esempio. Io come credente cristiano, cattolico, professo la fede in Dio Padre di tutti gli uomini. È ovvio che questa mia professione di fede mi aiuta a cogliere immediatamente, senza molti ragionamenti, l'immoralità di ogni razzismo. Perché se Dio è Padre di tutti gli uomini, il razzismo è un particolarismo etico, allora il razzismo non si concilia con la mia fede. Ecco la funzione storico-genetica che svolge la fede. Ma guai se io mi appellassi alla fede o alla rivelazione cristiana per dimostrare, che so, l'immoralità della tortura, l'immoralità di un comportamento concreto, perché questa immoralità io la devo dimostrare attraverso la ragione, una ragione etica in questo caso, che non è solo una ragione sociologica, puramente descrittiva, una ragione che si sforza di individuare, diciamo, attraverso i valori e le analisi empiriche, quelle norme che ci permettono non solo di comportarci oggi, ma forse anche di progettare il nostro futuro. Grazie. Adesso non c'è nessuno iscritto, quindi... Prego. Barangolo. Superiore di scienze religiose di Venezia, quindi anche il nostro direttore, nel senso che dirige tutto, ma ragione dirige tutto. Quello di Trento fa riferimento a Padova. Che confusione. Io volevo fare solo due osservazioni, contributi sul versante teologico e più strettamente l'angolatura biblica. La prima però è di carattere generale. A me pare che nel dibattito precedente, che a me è stato utilissimo per chiarirmi e disincantarmi da semplificazioni, una sola puntualizzazione farei. Non assegniamo alla competenza teologica la evidente e insuperabile competenza teologale. Cioè, io distinguerei tra una competenza teologica che interpreta e la fatica anche del teologo, pure ecclesiastico, di avere empatia, sintonia e capacità di comprensione. Cioè, l'avventura atea e la fatica di superare il proprio ateismo nell'incontro con l'uomo è di ogni teologo, non è soltanto di chi non è prete, non è laico. Ecco, volevo avvertire che è più complessa la ricerca, mi pare così, di venire vicino all'intervento del professor Bulgarassi. L'altro tipo di sottolineatura è una piccola angolatura biblica, lo sguardo sul futuro e ciò che potrebbe dire una seria ripercorrere seriamente la teologia biblica a riguardo, perché per chi studia la teologia biblica la storia interpretata dalla Sacra Scrittura e oltre la Sacra Scrittura ha trovato più volte tempi di diaspora, di complessità o di deserto, si potrebbe anche chiamare, analoghi a quello che si sta interpretando e da cui si fa fatica a dare uno sguardo sul futuro. Segnalo solo pagine grandi di questo tipo che potrebbero essere perlomeno di sussidio al teologo che guarda al futuro, forse anche un suggerimento ai sociologi e alla loro scienza, ma dico solo come proposta. Penso per esempio alla diaspora e alla dramma della caduta del regno di Samaria, siamo lontani nell'Antico Testamento, ma dentro i quali due letture erano pur presenti, quelle che potremmo chiamare dei falsi profeti, i quali erano attenti ai grandi protagonisti umani senza rispetto alla storia nel suo insieme, e quello dei profeti autentici tipo Amos, Isaia, Michea, quelli di quella stagione, e Osea. Un'altra grande pagina con le due letture con rispetto e simpatia al presente e al futuro è assenza, e l'altro grande avvenimento complesso, la caduta di Gerusalemme, dove la falsa profezia sosteneva in maniera scorretta e irrispettosa le sicurezze religiose di quell'ambiente. Il tempio, il trono e la terra non li perderemo mai, dicevano i falsi profeti. Un terzo periodo lo legherei globalmente come riferimento al tempo di Gesù di Nazareth e alla sua opposizione a una specie di falsa profezia del tempo o dei movimenti religiosi del tempo, quelli di tipo escatologico come i battisti, gli esseni, o quelli di tipo, potremmo dire, religioso integrista nella linea dei farisei. Un quarto periodo è quello dell'inizio del cristianesimo e dell'epoca apostolica. Paolo, interessante un libro che ho letto, che credo loro conoscono, quello di Eric Bots, Pagani e cristiani, un'epoca di angoscia, quando si legge quel primo secolo cristiano e le tensioni che ne erano nate, il significato del contributo cristiano. E mi permetto di indicare per una connessione che oggi ancora non è chiarita, ma che è profondamente interessante per il lettore biblico, il dopo Auschwitz, per il mondo ebraico, è il dramma che sta vivendo in ricerca del senso non puramente pragmatico, ma religioso eventualmente del suo futuro. È una delle cose che al lettore biblico è estremamente delicata, basterebbe pensare al pensiero di Martin Buber o di Neher o di altri arrivato e il loro sguardo sul futuro, il tentativo di ricavare una profezia che guardi al futuro. Ciò che vorrei solo segnalare sul versante della profezia come criteri e chiavi di intuizioni sono tre elementi. Il primo, che nei profeti autentici, globalmente presi, c'è una chiave che li sostiene, e viene evidentemente sul loro metodo teologico e teologale di leggere. Parlano spesso di doglie del parto e di generazione di qualcosa di nuovo, di fronte al quale non fanno descrizioni di futuro. Il vero profeta non descrive il futuro, ma segnala che non c'è una catastrofe dopo la prova. Non mi parrebbe secondario, certo per la teologia è fondamentale rispettare questa legge, ho parecchi testi ma è superfluo dirlo, no? Che un secondo dato che regge la profezia, quindi il suo tipo di sguardo sul futuro, è di interpretare il presente con l'ipotesi di fiducia sull'uomo, potremmo dire quasi cieca, e non necessariamente tinta senz'altro di teologale. L'uomo è irrecuperabile, lo diranno più esplicitamente nel Nuovo Testamento il motivo, ma mi pare molto importante questo dato, ovviamente caricato anche poi del riferimento al divino e quindi allo stile di Dio. Terza osservazione, l'opposizione quindi tra vera e falsa profezia nasce esattamente da questa denuncia della falsa profezia. La falsa profezia è un'offesa all'uomo e a Dio, perché va d'accordo con i potenti e non con la grande storia umana più misteriosa. Ecco, come accenni mi pareva così di ricordare queste chiavi. Grazie, Marengo. Professor Gasparini, sociologo Trieste. 12:32, abbiamo 28 minuti, dico bene? Ma l'uno bisogna implacabilmente... Sì, credi proprio di sì. Sì, no, chi? No. Sei tu che ci sfama. Alle due implacabilmente di nuovo qua, professor Burgalassi. Alle due implacabilmente il professor Burgalassi deve essere qua perché presiede. scusa, prego. Ecco, io vorrei solo dire alcune cose, probabilmente o che sono state dette ad ogni modo diventano un po' pleonastiche, sono arrivato da poco, quindi purtroppo mi scuso. Ad ogni modo, io vorrei accennare al problema della previsione. Previsione è futuro anche, ma previsione in generale. Ecco, sulla scientificità, io credo che ci sia, anch'io io ho sentito alcune affermazioni, io credo che probabilmente la previsione non è da farsi perché si verifichi la previsione, probabilmente la previsione e non è neanche un esercizio così, ma è semplicemente esplorazione per poi dopo agire e quindi intervenire sulla realtà perché quello che si prevede si verifichi oppure anche non si verifichi. Pensiamo ad esempio alla ricerca, alla simulazione della ricerca pubblicata nei limiti dello sviluppo, ad esempio, che ha avuto una grande importanza per cercare di trovare che non si verifichino certe situazioni negative che noi non volevamo. Quindi è una previsione perché non si verifichi. Quindi la previsione è per l'azione. Io credo, perché non si verifica la previsione per quello che si prevede? Io direi che non si verifica per alcune l'interferenza di alcune variabili. Noi sappiamo, anzitutto c'è il problema della relazionalità, cioè le cose che si prevedono nel futuro, che capiteranno nel futuro, capitano sì per delle intenzioni delle persone, delle istituzioni o chi volete, però al tempo stesso dipende anche dal tipo, dal come vanno le cose, dalla relazionalità che man mano si crea diciamo delle situazioni nuove, degli incontri di tanti obiettivi che spesso divergono e che possono creare, possono produrre in quel qualche cosa di nuovo. E questo, io credo, in limite, quando parliamo di utopia, e le utopie sono tremendamente negative, le utopie proprio perché sono perfette, proprio perché prevedono che non ci sia relazionalità, che il mondo si fermi, venga fotografato in quel momento lì e quel momento lì la gente, da quel momento lì in poi la gente sia felice e continui ad essere felice senza sentimento, cioè senza mettere il sentimento, le emozioni nella vita. Un'altra variabile, quindi la variabile della relazionalità. E qua potremmo dire che la storia veramente diventa maestra di vita. Cioè la previsione, a mio avviso, non è soltanto la proiezione di tendenze del presente, ma in questa relazionalità, probabilmente in questa previsione degli effetti relazionali, probabilmente dobbiamo andare a vedere come la storia, nella storia, andare in questo grande calderone, in questo grande cesto, no? Dove ci sono tutte le cose, tutte le soluzioni, anche relazionali ai problemi, ed eventualmente andarne a pescare e andare a simulare che effetti possono avere queste diverse modalità storicizzate di relazioni nel generare, diciamo, questo futuro, cioè questa previsione, nel fare questa previsione. Quindi le ipotesi, quindi storia addirittura che diventa come in questo senso maestra di vita. Un'altra variabile che mi sembra è l'interferenza, perché c'è la relazionalità, ma ci sono anche, ad esempio, ci sono certe forze che danno maggiore enfasi su delle variabili in un certo modello che sta e che è in evoluzione e che sono in attese. Pensiamo, ad esempio, probabilmente l'enfatizzatore massimo, no? Quello da mettere vicino il Grande Fratello, l'enfatizzatore massimo attuale sono i mass media. I mass media enfatizzano una certa variabile in un certo momento e quella variabile diventa sostanza, diventa realtà e modifica il corso della storia. Storia con la S piccola, non con la S grande, probabilmente, perché si vedrà poi in seguito se sarà piccolo o grande. Un'altra variabile è probabilmente quella del tempo. Ecco, il tempo, la meteorologia, prima si parlava di meteorologia, probabilmente va bene, le azzecca bene nel breve periodo, le azzecca non bene, allora probabilmente la previsione può avere delle funzioni diverse a seconda dei tempi, nei tempi immediati, per dei problemi specifici, ecco forse ci può azzeccare in qualche modo. Ecco, probabilmente, e quindi è una previsione fatta in qualche modo proprio per sapere come va a finire la propria azione, come reagiscono gli altri, come reagiscono le altre forze, istituzioni, eccetera. Ma nel medio periodo probabilmente è una previsione che è fatta per, come esercizio, ma per vedere come andranno a finire le cose che eventualmente, e quindi fare in modo che non si verifichi quella previsione, e cioè è una guida, diciamo, per l'azione, senza nessuna pretesa perché si realizzi quello che si vuole realizzare. Dove sta la scientificità, allora, della previsione? A me, secondo me, sta soprattutto nei metodi, cioè nel trattare queste cose che si è detto, queste variabili, questi modelli, queste simulazioni, in termini scientifici, cioè in termini di un metodo, in termini della della scientificità del metodo, diciamo. Non tanto quindi nel fatto che, ad esempio, spieghi bene un fenomeno, perché è un fenomeno che deve ancora avvenire, no? Ma in quanto, diciamo, i metodi, gli strumenti che sono utilizzati, le informazioni, tutte le variabili che sono utilizzate sono trattate in maniera scientifica. Questo dopo, che cosa è scienza, cosa non è scienza, ma questo è un altro problema. Due relazioni tra ragione e fine. Grazie professor Donati. Sociologo Bologna, uno dei previsti relatori del convegno di maggio. Sì, grazie per la parola. Io non so, avrei tante cose da dire, ma penso che ne dirò pochissime. Sì, infatti prendo posto l'orologio per non approfittare del tempo. Spero però di avere una chance ulteriore nel pomeriggio. Perché è un incontro che io attendevo da tantissimo tempo, questo è. Ringrazio particolarmente Capraro per aver favorito questa iniziativa e avermi invitato, perché ritengo che questo tema del confronto sociologia-teologia sia un tema veramente cruciale, e mi spiace che la partenza di stamattina sia stata una partenza così difficile, per cui vorrei cercare di capire se possiamo impostare diversamente le cose. Ritengo che il problema metodologico, come è stato posto da Guizzardi, sia un problema importante, ma che il nostro confronto iniziale fra ateismo metodologico, poi rivisitato come agnosticismo, e ipotesi invece ermeneutica forte, sia assolutamente mal posto. Assolutamente, ma non condivido né una posizione né l'altra. Devo dire né una posizione né l'altra significa che dobbiamo cercare un'altra soluzione, un'altra impostazione del problema. I problemi, le domande che io vorrei porre, a me stesso e agli altri, insomma, e che mi paiono il senso di questo incontro, in preparazione del convegno, le domande sono due fondamentalmente. In che relazione stanno la sociologia e teologia fra loro, fra di loro? E seconda domanda, che cosa possono apprendere l'una dall'altra, nell'autonomia si intende, di ciascuna? Perché mi pare che l'impostazione iniziale del discorso stamattina, questo confronto metodologico, non abbia in nessun modo favorito la comprensione della relazione fra sociologia e teologia, né abbia favorito l'apprendimento reciproco, ma piuttosto, semmai, il litigio reciproco. Detto questo, non voglio riprendere quel dibattito, perché sarebbe ovviamente molto interessante, cercare di fare uno sforzo per capire di che cosa stiamo discutendo. Cioè, cerchiamo di mappare il nostro territorio, fare la mappa del nostro territorio, cioè dove ci muoviamo, dove ci stiamo muovendo, di che cosa stiamo parlando. Stiamo indubbiamente parlando della relazione fra sociologia e teologia nel tempo storico. Io non vorrei fare troppo futurologia, insomma, come ho detto a Capraro, mi sembra importante che prima di andare a fare un discorso sul futuro, cioè su come queste due discipline, questi due ambiti di conoscenza possono parlare sul futuro, prevedendo o non prevedendo, questo è un altro discorso, sia importante cercare di capirci anche solo sul presente. Vuol dire che veniamo da secoli di incomprensione reciproca, Prima di parlare sul futuro cerchiamo un momentino di stabilire, ecco, come si rapportano fra di loro, semmai utilizzando la variabile del tempo comune, cioè capendo come concepisci il tempo la sociologia e come concepisci il tempo la teologia. Il tempo nella sociologia in questo momento è soggetto a un ripensamento enorme, ci sono mille concezioni diverse del tempo, un tempo che si fa circolare, un tempo che si fa riversibile, un tempo che si differenzia nelle sue dimensioni, eccetera. La teologia ha anch'essa un ripensamento di che cosa è il tempo, cioè riflette su cosa è il tempo, cioè prima di parlare del futuro. Ma facciamo un caso concreto, cioè, io sarei per una metodologia che imposti dei problemi concreti. Voglio dire, sociologia e teologia di fronte al futuro. Allora, provo a fare un esempio di come io posterei un discorso di questo genere. Prendiamo un tema che a me è abbastanza familiare, quello della famiglia, no? Se uno dovesse dire cosa dicono la sociologia e la teologia di come sarà nell'anno 2000, nel 2100, nel 2200 la famiglia. Facciamo un caso concreto. Sarà questa famiglia enormemente diversa da quella di oggi? Saranno forme pluralistiche? Ci sarà il matrimonio gay? Non ci sarà? In che posizione sarà rispetto agli altri? Questo è un esempio concreto, ma direi che il problema ancora più fondamentale è come sarà l'uomo, come sarà l'umano nel 2000, nel 2100, eccetera. E se io provo a pormi queste domande, indubbiamente, ecco, ponendo la domanda e mi chiedo come risponde la sociologia, come risponde la teologia, cominciamo ad andare sul pratico e a confrontarci lì. È inutile che facciamo questioni a prioristiche, anche se indubbiamente è importante capire che metodi si seguono, ma cominciamo a affrontare un esempio concreto e a capire su quello che cosa possono apprendere le due discipline l'una dall'altra. Dubbiamente la sociologia dice qualche cosa, la teologia dice stai attenta che la gente percepisce il matrimonio oggi in un modo diverso, c'è un simbolismo della famiglia che cambia, ci sono dinamiche differenti, eccetera. Non è che la teologia non se ne accorga, ma la teologia lavora su un altro piano, evidentemente. La teologia non può accettare il fatto ipsum factum, è vero un ipsum factum, insomma, Vico sta là. Quello che voglio dire è che nel rapporto fra sociologia e teologia noi abbiamo avuto delle relazioni molto differenti, sarebbe il caso di fare il punto della situazione su questo. Perché da un lato abbiamo avuto le sociologie positivistiche e anche travestite con varie assunzioni metodologiche che hanno detto io come sociologia descrivo i fatti, faccio una morfologia dei fenomeni sociali, vi dico come sono i comportamenti religiosi, le credenze, se la gente pratica o non pratica, che cosa crede, come cambia le credenze, se va a messa o non ci va, se usa i sacramenti o non li usa, come la Chiesa si organizza pastoralmente in risposta, eccetera, all'ecclesiologia, eccetera, eccetera, eccetera. Questa è stata una sociologia positivistica, più o meno raffinata, più o meno rozza, eccetera, che ha avuto un pregiudizio, e questo non c'è dubbio, nei confronti della teologia, cioè ha detto la teologia non ci serve per capire la religione. Una sociologia quindi che si è chiusa a una fecondazione reciproca con la teologia, cioè a capire, a apprendere qualcosa dalla teologia. E indubbiamente c'è stato anche il viceversa, cioè dire una teologia che ha detto non mi interessa niente di sapere se la gente va a messa o no, perché che Dio esista o no non dipende dal fatto che la gente ci creda. Dio esiste per conto suo, che ci sia la rivelazione, il Vangelo, eccetera, eccetera, tutte le verità religiose esistono indipendentemente dal fatto che la gente ci crede o no, si comporti o no in un modo, che il barometro della sensibilità verso un sacramento o l'altro vada su o vada giù, questo non mi interessa. È stata una relazione, un certo tipo di relazione, questo fra sociologia e teologia, che andrebbe un momentino rivisitata, discussa un pochettino per capire quali incomprensioni ci sono state. Ma resta l'impasto, resta che anche oggi, se io guardo le principali scuole sociologiche, anche italiane, devo dire che restano sostanzialmente su questa posizione, diciamo, la posizione è sostanzialmente questa. La sociologia è una disciplina che descrive i fatti, può cercare di interpretarli anche, ma l'interpretazione ovviamente è qualcosa che deve fare nel suo codice simbolico, La teologia è un altro, sottolineo un altro virgolette, punto di vista, cioè qualcosa di incommensurabile che sta su un piano totalmente diverso, ha la sua legittimità, ma ha la sua legittimità come ha la legittimità qualunque altro punto di vista nel mondo e sul mondo, qualunque altra religione, qualunque altra ideologia, qualunque altro punto di vista nel senso più ampio di questo termine. Ora è chiaro che se l'impostazione è questa non ci troviamo, evidentemente non sarà, non potremo fare niente per capirci e per apprendere qualcosa gli uni dagli altri. Proviamo a capire come si può andare avanti su questa relazione. Allora si può dire no, non mettiamo una relazione di incommensurabilità fra sociologia e teologia, cerchiamo di capire se esiste qualcosa che le renda commensurabili. Cosa può renderle commensurabili, o se preferite, comunicabili? È chiaro che sono su piani diversi, questo è indubbio, non possiamo pensare di metterle sullo stesso piano, sono su piani di discorso, di punto di vista, di conoscenza, di metodologie differenti, ma hanno qualcosa in comune, c'è una commensurabilità, c'è una comunicabilità, c'è una dicibilità reciproca, c'è un apprendimento reciproco, possibilità di apprendimento reciproco. Qui qualcuno ha cominciato a instradarsi e allora vedo in alcune posizioni una certa, come dire, una certa spinta, un certo sforzo per mettere in interazione, fare agire reciprocamente sociologia e teologia. Qualcuno cerca di trasferire concetti sociologici in teologia, qualcuno cerca di trasferire dei concetti teologici in sociologia, qualcuno vede la teologia da un punto di vista solamente teologico o viceversa. Se si fa degli esempi, un sociologo che tenta di ridurre la teologia al proprio punto di vista, farei subito l'esempio di Luhmann, evidentemente, che dice ai cristiani rinunciate alla risurrezione, cosa ve ne fate della risurrezione? Se togliete quello cominciamo a capirci, evidentemente un cristiano non può togliere, se togliere la risurrezione casca tutto, evidentemente. Allora un sociologo che ragiona in questi modi evidentemente non è accettabile, cioè non è qualcuno che produce un dialogo, che produce una comunicazione, che produce una commensurabilità. Dall'altra abbiamo dei teologi che cercano viceversa, come dire, di catturare la sociologia. E si potrebbero anche qui fare degli esempi. Cioè quello che manca è una mappatura, la chiamerei io, del territorio, cioè del discorso, delle forme del discorso, dei contenuti del discorso, che ci consenta questa comunicazione reciproca e quindi la possibilità di imparare qualche cosa gli uni dagli altri. Se si riesce a fare questa mappatura, se si riesce ad andare su degli esempi concreti, facevo l'esempio della famiglia, per esempio, perché è un oggetto concreto, perché è una relazione concreta, perché è una roba molto, molto importante, ecco, allora forse potremo fare un passo in avanti. Io suggerirei solo, così, dato che il tempo sta scorrendo rapidamente, cose da dire sarebbero tantissime, una suggestione, cioè a me pare che si debba necessariamente, come dire, dare degli insight, delle visioni, delle cose che ci aiutino a capire un po' di più, poi se sono produttive, se servono, si tengono, se no si buttano via. Ma io penso sempre, e qui dovrei entrare nel discorso relazionale che mi ha un po' aperto la strada anche Gasparini, che ha fatto un intervento che condivido in pieno, il discorso relazionale secondo me è l'unica matrice che ci consente di parlare assieme, cioè di trovare queste forme della comunicazione reciproca. E mi chiedo perché mai questo non sia stato finora. Vado così brutalmente, perché capisco che sia troppo ex abrupto questo che sto per dire, ma la teologia ha un cuore. Che cuore ha? Qual è il cuore della teologia cattolica? Secondo me il cuore della teologia cattolica è la Trinità. Ma detto uno, ciascuno può dire la sua, ma insomma. Se è vero che però assumiamo che il cuore della teologia cattolica sia la Trinità, questo non ha mai avuto nessuna rilevanza nella visione del sociale, della società. Alla teologia questo non è mai servito per capire la società. La teologia non ha mai cercato su questa base di capire la società. E io mi chiedo dall'altra parte, qual è il cuore della teologia? sociologia, qual è, cioè, l'elemento focale della sociologia. Molti dicono il soggetto, altri dicono il sistema, altri dicono le azioni. Proviamo ad assumere che il cuore della sociologia sia la relazione sociale. Proviamo cioè a capire che la società è relazione, non ha relazioni. Se questo è vero, non trovate che ci sia una veramente sorprendente e interessantissima matrice, diciamo, di pensiero e di comunicabilità? Poi dopo discuteremo se questo ci porta lontano o no, discuteremo in che senso deve essere interpretata, discuteremo a che cosa ci serve o non ci serve, se ci fa prevedere il futuro o no, tutto quello che volete, ma il problema è avere un punto da cui partire per questa comunicabilità reciproca. Perché se è vero che per la teologia il mondo è stato fatto da Dio, se per la teologia questo mondo porta l'impronta di chi lo ha fatto, perché chi fa evidentemente mette la sua impronta sempre nelle opere che fa, e se è vero appunto che quindi il cuore della teologia è trinitaria, allora significa che nel mondo, diciamo, la struttura del mondo, non solo il mondo creato, delle cose create, degli enti creati, ma un mondo molto diverso del sociale, che non è della stessa natura degli enti creati, questo mondo ha una sua caratteristica che io chiamo relazionale, diciamo, che la stessa sociologia indaga, perché la sociologia da un punto di vista completamente diverso, con altre metodologie, con le sue proprie forme di autocontrollo, con la sua autonomia nell'analisi delle relazioni, eccetera, eccetera, però c'è una mappatura di un mondo su cui entrambi, teologia e sociologia, possono parlare. E allora il discorso dell'ermeneutica torna in campo, ma è un'ermeneutica che si legge in un modo diverso, perché l'ermeneutica è solo una componente della relazione, non è tutta la relazione. La relazione ha bisogno di ermeneutica, ma l'ermeneutica non assorbe tutta la relazione. Così come viceversa, si capisce che se si assume metodologicamente di fronte a una relazione che io mi nego alla relazione stessa, cioè metto in piedi un sistema di osservazioni che nega la relazione con l'oggetto e addirittura nega la realtà relazionale dell'oggetto, evidentemente è come se io volessi vedere accecandomi gli occhi e non posso vedere, evidentemente. Quindi secondo me diventano comprensibili molte cose, dalle quali poi sporgersi per affrontare le dimensioni e l'oggetto del discorso. Ecco, per esempio la stessa relazione di immanenza-trascendenza. Se il discorso, diciamo, della religione è essenzialmente la relazione immanenza-trascendenza, evidentemente su questo va portato il discorso, ma se c'è una matrice relazionale comune, allora si può comunicare. Se non c'è questa mappatura comune, evidentemente resta l'incomunicabilità. Mi fermo qui per ragioni di tempo, se mai intervengo dopo il pomeriggio. Grazie. Allora, l'ultimo intervento, c'è spazio, se no smettiamo qui. Ecco, smettiamo qui, nel senso che smettiamo la prima parte, anche perché professor Garelli è l'ultimo. Ecco, allora intanto che arriva qui Garelli, dico solo che nel pomeriggio presiderà il professor Borgolassi alle 2, che si continuerà chiaramente su questa lunghezza d'onda, perché l'ho detto anche il mio amico Capraro. L'avrebbe in qualche modo assorbito il tema specifico e questo mi è parso quasi ineluttabile, e oggi pomeriggio interverrò anch'io. Ecco, la cosa è stata molto vivace, prego, se può essere per favore breve, perché siamo... Sì, sarò molto breve. Mi ha stimolato questo ultimo intervento di Donati. Mi chiedo, prima cosa, se davvero bisogna trovare un terreno comune. Io non sono tanto convinto, non so quale possa essere il terreno comune tra teologi e sociologi, nel senso che qui, però è proprio un interrogativo, non è detto con malizia, nel senso che mi chiedo, ecco, che cosa, no, mi chiedo su quali aspetti la teologia può sollecitare i sociologi. Ecco, questo è un interrogativo. Cioè, mentre riesco a capire di più, no, E mi sembrerebbe quasi di pensare che ci sia un primum logico, ma non nel senso di priorità di valore, no? Nel senso che in una certa descrizione della realtà, allora i teologi che pur hanno una prospettiva più normativa, ma comunque devono tenere presente, ecco, che il discorso su Dio poi è da farsi, no, in questo contesto, e quindi in qualche modo devono considerare, ecco, l'ambiente nel quale poi la proposta religiosa deve essere fatta, però dentro una divisione di ruoli e di compiti ben precisa. Ecco, non riesco a capire, o mi risulta più difficile capire, la sollecitazione che può venire ai sociologi da parte dei teologi, ma ripeto, chiedo, è aperta. Quindi io direi, il confronto può essere fatto, mi sembra giusto, su degli aspetti concreti, anche in rapporto al futuro, se vogliamo pensarlo, no? Ma in rapporto a un'analisi della situazione, andare più in là con delle opzioni di valore, mi sembra che davvero a questo punto non è compito del sociologo, è qui che mi chiedo che cosa, ecco, noi i sociologi possono essere sollecitati da, perché mi sembra un campo diverso, quindi il problema è di delimitare il campo. Seconda considerazione, in questo fatto però probabilmente non abbiamo mai fatto delle riflessioni approfondite ad hoc, però non è neanche che non ci siamo mai letti o non abbiamo mai riflettuto su questo terreno comune. Faccio un esempio. Se, in rapporto a tutta una serie di analisi, no, che vengono fatte in questi anni, se i sociologi dicono, no, dalle loro indagini, che attenzione, no? Attenzione, ma attenzione, togliamo anche l'attenzione, cioè diciamo questo è un processo, è un fenomeno rilevante che oggi, non so, nelle società avanzate, come può essere nel contesto italiano, la religione svolge più una funzione sociale e culturale che una funzione non tipicamente religiosa, no? Questo è un dato che per il sociologo è di un grande interesse. No? Al di là del fatto che sia agnostico, credente, eccetera, ma ecco, l'interesse è l'evidenza sociale, no? Come direbbe Weber, per le conseguenze sociali del fenomeno. Quindi questo è un dato interessante, che credo interpelli in senso forte i teologi, perché i teologi devono rendersi conto che in molti casi ciò che loro chiamano esperienza religiosa è un'esperienza etnico-culturale, o comunque con una forte valenza a questo livello. Primo elemento. Secondo, quando noi diciamo c'è una grande differenziazione del campo religioso, quindi non si può più fare un discorso di identità cattolica in senso, per quanto riguarda l'Italia, in senso lato, ma e qui occorre operare una serie di distinzioni, poi a seconda dei casi faremo delle distinzioni più o meno adeguate, interessanti, eccetera. Qualcuno parlerà di maggioranza, di minoranza, qualcuno questi termini non piaceranno. Si tratterà di, anche in rapporto alle poche ricerche che abbiamo, questo è l'altro aspetto, no? Perché uno non si può neanche pretendere che noi abbiamo super raffinati metodi o tipologie quando abbiamo delle indagini super generiche. No, da questo punto di vista, perché non abbiamo mezzi, strumenti, eccetera, non abbiamo la disponibilità dello yard ogni tre anni di 400 milioni per volta, eccetera. Quindi comunque, quando diciamo c'è una differenziazione del campo religioso, i teologi dovranno tenere conto, perché un dire la fede in termini generali credo che non risponda più alle attuali condizioni di vita. Terzo aspetto, quando diciamo che la fede nell'Occidente sta perdendo il suo carattere esclusivo, dal punto di vista sociologico diciamo una cosa forte, rilevante. Voi pensate il depotenziamento della fede, no? In un contesto in cui la gente pensa che la propria religione non abbia più un carattere esclusivo. E, difatti, perché poi abbiamo invece per contrasto i fondamentalismi, no? Ecco. Allora, per i teologi questo è un fatto, ma potrei continuare tantissimo, no? Da questo punto di vista. Questi sono terreni, a mio avviso, di incontro, e sono terreni a partire dall'analisi. Ecco, mi chiedo se è possibile trovare altri terreni di incontro. Questo è il mio interrogativo. Se è possibile, oppure se occorre delimitare in questo ambito, voglio dire, forse non abbiamo mai fatto delle riflessioni ad hoc, però non è neanche che non ci sia relazione tra di noi.